Topic of our Dhamma talk today is wisdom, intuitive satna wisdom, and satna then the first satna manifestations of or first forms of intuitive wisdom as satna they arise in our Vipassana practice. Quindi l'argomento del discorso di questa sera sarà la saggezza intuitiva e le forme che assume o come si manifesta questa saggezza intuitiva all'interno della nostra pratica di Vipassana. The philosophical setting of ancient India was influenced by three main approaches to the acquisition of knowledge. Quindi il setting, diciamo lo sfondo filosofico presente nell'India antica è caratterizzato da tre approcci riguardo alla acquisition of knowledge. L'acquisizione della conoscenza. The Brahmins, for one thing, relied mainly on ancient sayings handed down by oral transmission as authoritative sources of knowledge. C'erano i bramini che si affidavano a dei detti, diciamo, che venivano tramandati da testi antichi, diciamo, ed erano tramandati per trasmissione orale. E questi erano considerati la fonte di conoscenza primaria. While in the Upanishads one finds philosophical reasoning used as a central tool for developing knowledge. E nelle Upanishad invece c'era un ragionamento filosofico che era lo strumento principale per l'acquisizione della conoscenza. In addition to these two, a substantial number of the wandering ascetics and contemplatives of that time considered extrasensory perception and intuitive knowledge gained through meditative experiences as important means for the acquisition of knowledge. Inoltre c'erano degli asceti, diciamo, in quel periodo nell'India antica, che si affidavano più a delle esperienze extrasensoriali, diciamo, e consideravano tali esperienze la loro fonte, diciamo, di conoscenza. Now, these certain three approaches can be summarized, number one as oral tradition, number two logical reasoning, and number three direct intuition. E quindi questi tre approcci possono essere riassunti come il primo la tradizione orale, la seconda invece la discussione o argomentazione, diciamo, filosofica, e la terza invece una esperienza diretta che porta a una conoscenza intuitiva. When asked on his own position in this regard, the Buddha placed himself in the third category, namely of direct intuition. Quindi all'interno di questo quadro, diciamo, il Buddha si pone come, come dire, aderente al terzo tipo di acquisizione di conoscenza, cioè quella basata sull'esperienza diretta e sull'intuizione. Although the Buddha did not completely reject oral tradition or logical reasoning as ways of acquiring knowledge, yet he was keenly aware of their limitations. Sebbene non rifiutasse né la tradizione orale e né questo ragionamento logico, tuttavia vedeva i limiti di queste due forme di acquisizione della conoscenza. When it comes to logical reasoning, the Buddha was an expert in this field, and on many occasions, during many debates, he then resorted to logical reasoning to convince the other party. Per quanto riguarda il ragionamento logico, il Buddha era un esperto in questo campo e in varie occasioni ha utilizzato questo strumento del ragionamento logico proprio per convincere i suoi interlocutori. Now, in terms of the limitations, the problem with oral tradition is that material committed to memory might be wrongly remembered. Or, moreover, even material that has been well remembered might be false and misleading. Per quanto riguarda i limiti di questi approcci, considerando il primo, cioè la tradizione orale, il materiale che viene ricordato a memoria potrebbe essere ricordato in maniera sbagliata o, se viene ricordato in maniera giusta, potrebbe anche non essere corretto come tipo di conoscenza. Now, likewise, with logical reasoning might seem quite convincing, but then turn out to be unsound, or, moreover, even sound reasoning might prove to be false and misleading if it is based on false premises. Per quanto riguarda il ragionamento logico, potrebbe sembrare convincente, però diciamo che potrebbe essere basato su delle concezioni o delle idee non solide e quindi ci potrebbero essere dei fraintendimenti oppure delle interpretazioni errate riguardo a ciò che è oggetto della conoscenza. On the other hand, what has been well remembered, or what does not appear, what has not been well remembered, or what does not appear to be perfectly well reasoned, might nonetheless turn out to be true. Tuttavia, anche ciò che non è stato correttamente ricordato, o ciò che non è, come dire, il risultato del ragionamento logico può anche non essere perfettamente corretto, pur tuttavia in entrambi questi casi la conoscenza può essere giusta. Now, the Buddha distinguishes three forms of acquiring knowledge. The first one is certainly given in the Pali scriptural language as Chintamaya Banya, meaning knowledge based on thinking. Allora, il Buddha enumera tre modi per poter acquisire la conoscenza. La prima è nella lingua Pali Chintamaya Banya, e cioè la conoscenza che si acquisisce attraverso l'attività del pensare, quindi attraverso il pensiero. And then secondly, he speaks of knowledge based on learning, Suttameya Panya. Il secondo, in lingua Pali, è Suttameya Panya, e cioè la conoscenza che si acquisisce attraverso l'apprendimento. And finally, there's knowledge which is based on mental development. E il terzo tipo di conoscenza è quella che si acquisisce sulla base dello sviluppo mentale. And this in the Pali scriptural language is certainly referred to as Bhavana Maya Panya. E nella lingua Pali questa è chiamata Bhavana Maya Panya. Panya. And it is that certain last form of that knowledge that interests us here most. Ed è questa terza forma di conoscenza che è quella che ci interessa di più in questo contesto. Now, there are certain things that certainly cannot necessarily be understood through thinking, and there are also things that cannot be understood just by learning. Ci sono alcune cose che non possono essere comprese semplicemente attraverso il pensiero né attraverso l'apprendimento. the foremost among, you know, those certain things is satya nibbana. E soprattutto la cosa più importante che non può essere appresa in questo modo è nibbana. Non può essere conosciuta così, nibbana. It is beyond logical reasoning. One does not get or arrive at it, you know, through logical reasoning. Perché questo va oltre il ragionamento logico. Uno non può comprenderlo attraverso il ragionamento logico. Dhammapada verse 282 then states as follows: indeed, wisdom is born of meditation. Without meditation, wisdom is lost. E il verso 282 del Dhammapada dice che la saggezza può essere acquisita attraverso la meditazione. Senza la meditazione non si può arrivare alla saggezza. Knowing this twofold path of gain and loss of wisdom, one should conduct oneself so that wisdom may increase. E quindi conoscendo questi due modi di ottenere o di non ottenere la saggezza, la persona dovrebbe impegnarsi al massimo per poter sviluppare la saggezza. Per aumentare la propria saggezza. Now, the texts in different places speak of various factors that contribute to the arising of intuitive knowledge. In vari punti, nei testi, vengono indicati dei fattori che possono aiutare a sviluppare questa conoscenza intuitiva. Now, one such example can be found in the fifth volume of the Samyutta Nikaya, section 411, where the Buddha speaks of association with the wise as one aspect, as one factor that contributes to the arising of wisdom. Nel Samyutta Nikaya viene indicato come uno dei fattori che può aiutare a far sorgere la saggezza quello di frequentare persone sagge. The second factor is hearing the true Dhamma. Il secondo fattore è quello di ascoltare il vero Dhamma. The third factor is given as wise attention or paying careful attention. Il terzo fattore è quello di prestare la saggia attenzione, la giusta attenzione. And what do you think the last point might be? E qual è l'ultimo punto, secondo voi, l'ultimo fattore? Meditate. Okay, that's it. Now, namely, to actually apply what one has heard, apply that to one's practice. E cioè applicare quello che si è ascoltato alla propria pratica, quello che si è imparato alla propria pratica. No, there's no shortage of people who will be happy to associate with the wise, who are also very happy to listen to Dhamma talks, maybe also pay close attention, but then when it comes to actually practicing in accordance with the Dhamma, they'll say, oh, I'm busy, I've got this to do, I've got that to do. Quindi forse ci sono abbondanza di persone che è disposto a frequentare persone sagge o ascoltare il Dhamma. Forse ce ne sono abbastanza anche che sono disposte a prestare la giusta attenzione, ma quando si tratta poi di mettersi a praticare secondo ciò che si è udito, ascoltato, beh, forse cominciano a trovare delle scuse, ma no, sono troppo impegnato, questo non lo posso fare, eccetera. No, a different passage from the Samyutta Nikaya, namely from the Alawakratna Sutta, speaks to the same point. The question asked by Alawaka is how does one gain wisdom? E quindi c'è questo sutta, l'Alawaka Sutta, nel Samyutta Nikaya, in cui questa persona, Alawaka appunto, chiede, immagino al Buddha, come faccio ad acquisire la saggezza? And the Buddha's answer, then in verse form, comes as follows: placing faith in the Dhamma of the Arahants. Allora il Buddha risponde in questo modo, ponendo la tua fede nella saggezza degli Arahant. For the attainment of Nibbana, per il raggiungimento, l'ottenimento del Nibbana, from desire to learn one gains wisdom, o uno acquisisce la saggezza grazie al desiderio di imparare, if one is diligent and astute, e anche uno l'acquisisce se è diligente e astuto. So what this sutta then implies is that first sutta, some of the faith has to arise, some initial still weak sutta faith. With this sutta faith, then one might approach a teacher and lend an ear and hear the Dhamma. Questo cosa significa? Che è necessario inizialmente una certa fiducia, e sulla base di questa fiducia la persona si avvicinerà a un insegnante e sarà disposto ad ascoltare il Dhamma. When hearing the Dhamma more and more, a desire to learn the Dhamma, and maybe even more, a desire to practice and gain the Dhamma, might arise. E ascoltando questo insegnante può nascere il desiderio di ascoltare ancora di più il Dhamma e di ottenere sempre di più il Dhamma, o avvicinarsi sempre di più al Dhamma. And then further requires that certainly one is diligent in one's practice, so in other words, possesses mindfulness, and certainly furthermore is astute in the sense of distinguishing what is well spoken and what is ill spoken. Dopodiché la persona sarà diligente, per questo si intende che svilupperà un certo livello di consapevolezza, e poi la persona sarà anche astuta, e ciò significa che riuscirà a distinguere tra distinguish between what is well spoken and quello che well spoken. Praticamente viene detto rispetto a ciò che viene detto in maniera corretta o non corretta, rispetto alla giustezza di ciò che ascolta, praticamente. Sì. Now, something that has been mentioned already several times is the threefold training. The training in virtue, sila seka, that then leads on to, or that then is certainly the foundation for the training in concentration, and based on those two, then the training in wisdom can take place. Abbiamo già parlato dei tre addestramenti, quindi il primo è questo sila seka, cioè l'addestramento nella virtù, che porterà al secondo tipo di addestramento, samadhi seka, cioè l'addestramento nella concentrazione, e sulla base di questi due, ecco che si potrà passare al terzo tipo di addestramento, cioè quello della saggezza. Now, we can still take things a bit further by looking at the so-called gradual path of training. And there, a number of factors are being described by the Buddha himself that then factors or major events that occur on the path of a disciple. E possiamo sviluppare ancora di più l'argomento parlando del graduale sentiero di addestramento mentale. E qui il Buddha elenca o indica una serie di fattori che accompagnano il meditante in questo sentiero di pratica. No, the first factor again comes in the form of some initial faith, which then leads on to the arising of right thought, namely thoughts of renunciation, nekama vitaka, and that then leads on to a willingness to observe ethical precepts. Allora, il primo fattore di questo sentiero è una certa dose di fiducia, fede o fiducia, che porterà a... che porterà ad avere il giusto pensiero, il retto pensiero. E questo a sua volta farà sì che il meditante sia disposto a mantenere una condotta etica. And it's an aspect of this willingness train in virtue is the practice of the restraint of the senses. E quindi questa pratica della virtù implica anche il controllo, il desiderio di limitare i sensi. Faccio un attimo un passo indietro. Il secondo passaggio, cioè il pensiero retto, è un pensiero di rinuncia. Avevo dimenticato questo particolare. And satya that then needs to be added by or complemented by mindfulness and clear comprehension, sati sampajanya, in the Pali scriptural language. Ecco, poi questa virtù che viene sviluppata sarà poi integrata con altri due fattori che sono sati sampajanya, cioè la consapevolezza e la chiara visione. And so, equipped certainly with these certain factors, then one overcomes the hindrances as certainly they arise. Quindi una volta che una persona ha equipaggiato, ha sviluppato questi fattori, ecco che può affrontare gli ostacoli quando si presentano. Now, in overcoming the hindrances, concentration is needed. Having temporarily overcome and abandoned the hindrances, one's level of concentration will become stronger. Per superare questi ostacoli è necessario avere una certa dose di concentrazione e quindi una volta superati gli ostacoli la concentrazione sarà più forte. And so then based on this concentration and earlier factors, then intuitive wisdom can arise. Quindi sulla base della concentrazione e dei fattori precedenti che abbiamo indicato, ecco che può sorgere la saggezza o la conoscenza intuitiva. Now, when we speak of intuitive wisdom, then we do not mean traditional knowledge or traditional wisdom such as certain sayings of the farmers with regard to the weather patterns and when to sow one's seeds and so on. Quindi quando parliamo di saggezza intuitiva, noi non intendiamo una saggezza di tipo tradizionale, come può essere quella di un contadino saggio che sa quando coltivare o arare il terreno sulla base del tempo, della luna, eccetera. But rather what we mean by intuitive knowledge, a knowledge which is associated with wholesome consciousness. Ma quello che intendiamo con saggezza intuitiva è una saggezza che è collegata, che è associata con uno stato di coscienza salutare. Now, the characteristic of that knowledge is that it penetrates certain things and sees things according to their intrinsic nature. Quindi la caratteristica di questa saggezza è che riesce a vedere e a cogliere, a vedere le cose così come realmente sono e cogliere precisamente la loro natura intrinseca. And the function of intuitive wisdom is to illuminate the objective field, so the field of objects that presents itself time and again. La sua funzione è quella di illuminare il campo in cui questi oggetti si presentano e di fare questo ripetutamente. In the absence of wisdom, the darkness of ignorance will prevail, and with this we do not clearly see the true nature of objects. e in assenza di questa saggezza saremo, come dire, oscurati dal buio dell'ignoranza e quindi ci sarà impedito di vedere con chiarezza la vera natura degli oggetti, dei fenomeni. So wisdom is certainly comparable to a person who walks into a pitch dark room. There's no electricity there, and suddenly then this person has a strong, let's say, flashlight, and then switches the flashlight on and sees the different items, the different pieces of furniture in that room. Quindi la saggezza può essere paragonata a una persona che entra in una stanza assolutamente buia, non c'è elettricità, la saggezza è appunto paragonata alla pila che ha questa persona in mano, che viene accesa e che gli permette di vedere i mobili o tutti gli oggetti che ci sono nella stanza. Now, in terms of its manifestation, intuitive wisdom is manifested as absence of bewilderment or absence of confusion. E come manifestazione la saggezza è definita come assenza di stupore o di confusione. Yes. And then its proximate cause is of two kinds. One is wise attention, and the other one is unification of the mind, in other words, concentration. E come cause prossime ce ne sono due. La prima è la saggia attenzione, e la seconda è l'unificazione della mente, ovvero la concentrazione. Now, to be very clear, intuitive knowledge is not just of one single kind. Intuitive knowledge comes in many manifestations, in many different ways. One understands many different things as one goes along this meditative path. E quindi la saggezza intuitiva è importante capire che non è di un solo tipo, ma si manifesta in diversi modi e di questo il meditante può fare esperienza man mano che va avanti con la propria pratica. Now, by intuitive wisdom we also don't mean cunningness. Furbizia, maybe, like being smart or wise. Yes. Quindi per saggezza, questa saggezza intuitiva non vuol dire furbizia. No. For the development of wisdom to take place, the various path factors of the Eightfold Noble Path are required. Perché possa svilupparsi questa saggezza intuitiva è necessario che siano presenti i fattori dell'ottuplice sentiero. No, the factor of right certain concentration is certainly the last among the eight path factors, yet concentration itself does not mark the path's culmination. Quindi la retta concentrazione è l'ultimo dei fattori del nobile ottuplice sentiero, tuttavia da solo la concentrazione non può, come dire, portare a termine, no, a suo culmine, questo sentiero. No, concentration itself is not adequate to the attainment of liberation. Quindi la concentrazione da sola o di per sé non è adeguata, non è sufficiente per portare alla liberazione. It fails to touch the defilements at their very fundamental level. Perché non riesce a toccare, come dire, a contattare i difetti mentali al loro livello più fondamentale, di base, alle radici, diciamo. And hence, if the interest is in abandoning mental defilements, we have to take things a step further, and this certainly then is certainly to cultivate intuitive wisdom. E quindi se vogliamo eliminare completamente dalla coscienza i difetti mentali, allora dobbiamo andare a, appunto, fare un passo in più rispetto alla concentrazione, e questa funzione è portata avanti dalla saggezza intuitiva, conoscenza intuitiva. And so we have fundamental, the so-called latent or dormant fundamental defilements. Those are mental, unwholesome mental states that lie inactive in the mind, and as long as there is no trigger, they remain inactive. But if an external or internal trigger comes up, then such a mental, latent mental defilement will then turn into an obsessive defilement, and this could further transform into a transgressive defilement. Quindi nella nostra mente ci sono dei difetti mentali latenti, dormienti, che rimangono così a livello passivo, inattivo nel flusso della coscienza. Però se c'è una causa scatenante, sia interna che esterna, ecco che si attivano e diventano poi dei difetti mentali ossessivi, e se vanno avanti non controllati per un po' di tempo, questi difetti mentali diventano trasgressivi. Now, with our training in virtue, by observing precepts, we manage to avoid transgressions by body and by speech. Quindi con lo sviluppo della virtù, e quindi rispetto dei precetti, per esempio, noi riusciamo a tenere a bada i difetti mentali a livello del corpo e della parola, le azioni e parola. With the training in concentration, the concentration helps to temporarily suppress, especially the hindrances. E con lo sviluppo e l'addestramento nella concentrazione, noi riusciamo almeno temporaneamente a reprimere, per esempio, gli ostacoli nella mente. And it is only with the training in intuitive wisdom that those latent, dormant mental defilements can be uprooted from the stream of consciousness. Ma è solo con lo sviluppo o l'addestramento nella saggezza intuitiva che questi difetti mentali possono essere sradicati dalla coscienza, dal flusso della coscienza. No, one cannot abandon those, abandon or eradicate those latent mental defilements, not all at once and right away, but rather the way to proceed is to first abandon them on a temporary basis whenever intuitive wisdom is there, and then sooner or later when conditions are right, then a total abandoning takes place. È chiaro che non si possono sradicare questi difetti mentali latenti dal flusso della coscienza tutti insieme, sarà un processo graduale, quindi quello che succede è che con appunto lo sviluppo della pratica o della concentrazione si sradicano un po' per volta, temporaneamente, e poi con il tempo si riescono a sradicare poi definitivamente. To better understand and appreciate wisdom, it might be worth pointing out that ignorance has a tendency to distort our cognitions, and that ignorance dominates our volition and determines the tone of our existence. Quindi per capire meglio l'importanza della saggezza occorre considerare come l'ignoranza distorce la nostra capacità cognitiva, diciamo, e inoltre l'ignoranza determina anche il tono del nostro il tono della nostra esistenza. No. I think I said, did you say three things? Yeah. The tone of our existence. The tone of our, first it distorts cognitions. That I said. Dominates volitions. Ah, ecco, la terza cosa è che l'ignoranza domina la nostra volizione, le nostre intenzioni. And this delusion is not of one kind, but rather of multiple layers. E questa illusione non si presenta in una non è di un solo tipo, ma si presenta in strati, è stratificata. And so, you know, one form of Phutna illusion is that one sees as permanent what in fact in reality is impermanent. Quindi un primo strato, diciamo, di questa illusione è che la persona vede come permanente ciò che non è permanente. Or another level of Phutna ignorance is seeing satisfaction in what is actually unsatisfactory. E un secondo livello di ignoranza o di illusione è vedere come soddisfacente ciò che in realtà non è soddisfacente. And yet certainly we have a third level of ignorance is to see a self where ultimately speaking there is no self. E il terzo strato di ignoranza è quello che ci fa vedere un sé laddove invece, parlando così in termini di realtà ultime, un sé non esiste, non c'è. Now, from a practical point of view, from a meditator's point of view, what can one do to develop intuitive wisdom? Quindi, da un punto di vista pratico, quindi dal punto di vista del meditante, cosa si può fare per sviluppare questa saggezza intuitiva? So let's suddenly assume that suddenly effort is there, mindfulness there, mindfulness is there, and suddenly concentration is also there. But it can still happen that there's no a real knowing about or knowing the nature of an object. Quindi immaginiamo che siano presenti sia lo sforzo, che la consapevolezza, che la concentrazione, tuttavia non c'è la vera conoscenza della natura del fenomeno. No. When you observe predominant objects as they occur in the body and in the mind, then check whenever you observe such an object, are you really knowing something about this object? Is there some understanding there or not? Quando sorgono dei fenomeni, degli oggetti, sia nel corpo che nella mente, uno dovrebbe chiedersi se sta veramente conoscendo questo oggetto. Cioè se c'è un processo di appunto apprendimento, di conoscenza della natura dell'oggetto. And if you're not really knowing anything about suddenly the current most predominant object, then make the necessary adjustments. Quindi se uno si accorge che non sta realmente conoscendo nulla di questo oggetto predominante che è sorto, allora uno dovrebbe fare degli aggiustamenti. So it could be that your effort needs to be readjusted, it could be that the effort is excessive or deficient. Quindi uno potrebbe vedere che lo sforzo che non va, forse è eccessivo, forse è troppo poco, e quindi anche lì lo adegua alla pratica. It could be that suddenly the mindfulness is a bit discontinuous. La consapevolezza potrebbe essere un po' discontinua. It could be that the mind is overly concentrated on an object. La mente potrebbe essere troppo concentrata su un oggetto. Or it could be that you're practicing with an improper attitude. O può essere che state praticando con un atteggiamento sbagliato, non appropriato. Now, if in a retreatant's practice, a retreatant keeps experiencing the same things over and over again for days, for weeks, then this is a clear sign that there's not much happening in terms of intuitive knowledge. Se un meditante si accorge che sta ripetendo le stesse esperienze nell'arco di giorni, di settimane, questo può essere un segno che non c'è una vera conoscenza dell'esperienza. If we really want to know the true nature of an object, then we have to set aside all concepts, judgments, evaluations, and so on. se vogliamo veramente conoscere la natura di un oggetto, dobbiamo mettere da parte tutti i nostri concetti, le nostre idee, i nostri giudizi e così via. No, as mentioned in previous talks, the balance of thought of the mind, in particular of this pair of controlling faculties of faith and intuitive wisdom, as well as the second pair of effort and concentration, is important. Come abbiamo detto prima, è molto importante anche l'equilibrio delle facoltà e soprattutto queste coppie, cioè la fede e la saggezza, e poi lo sforzo e la concentrazione. If, for instance, faith is certainly in excess, yeah, then it may very well be that certainly one believes just too easily. So then it certainly that could be then termed as blind faith. Se è in eccesso la fede, allora questo fa sì che la persona creda alle cose troppo facilmente e quindi si può cadere in una fede cieca. Or when so-called wisdom is stronger than the faith, then it could be that one simply just sees what one wants to see. One can deceive oneself in many different ways. Quando la saggezza è sbilanciata rispetto alla fede, quindi quando è troppa, allora una persona potrebbe anche essere ingannata o si può autoingannare, cioè crede solo a ciò che vuole vedere o vede ciò che vuole vedere. Now, when we undertake mindfulness practice over a longer period of time, then intuitive wisdom is likely to come up again and again. Quando intraprendiamo una pratica di consapevolezza in arco di tempo piuttosto lungo, allora questa saggezza intuitiva molto facilmente, molto probabilmente, sorgerà più volte. Now, some of you might have heard, might be familiar with the so-called insight knowledges that certain gradually unfold. Molti di voi forse sono a conoscenza o hanno familiarità con queste conoscenze dell'insight che un po', una dopo l'altra, un po' per volta, si sviluppano nell'arco della pratica. And certainly those are indeed manifestations of intuitive wisdom. E queste sono effettivamente le manifestazioni della saggezza intuitiva. But intuitive wisdom starts in a much more basic way. Ma questa conoscenza intuitiva inizia in un modo molto più basico, basilare, molto più namely, semplice. Insomma. When one observes a predominant object, let's say some predominant sensation, one carefully observes it, and the mind is certainly focused on it, concentrated on it, and one then comes to know, this is hardness. And in the case of a different sensation, one comes to know, this is stiffness. And then again, a different sensation is there, and one recognizes, this is pressure. So those are your very simple forms of the arising of intuitive knowledge. Allora, quando una persona osserva con molta attenzione un oggetto primario, predominante che sorge, riesce a riconoscere la sua qualità. Per esempio può dire, questa è durezza, oppure questa è rigidità, o questa è, non so, morbidezza, per dire. Allora, queste sono già delle forme molto basilari, molto semplici, di saggezza intuitiva. And sort of from there, one gradually explores more and more and comes to know more and more. E quello è un punto di partenza, e da lì la persona esplora sempre di più e viene a conoscere sempre di più. No. The Majjhima Nikaya contains a beautiful illustration for this. As retreatants, we basically have to be like a hen which is sitting on its eggs. Majjhima Nikaya ha un bellissimo esempio di questo e paragona un meditante a una chioccia che sta covando le sue uova. So the hen it will sit on its eggs for hours, then briefly get up, move around, then get some food, and suddenly then continue to sit on its eggs and provide those eggs with warmth. E quindi questa chioccia rimane a covare le sue uova, poi si alza brevemente, magari per andare a mangiare qualcosa, però poi ritorna per mantenere al caldo le uova. So, in the same way, what we need to do is, time and again, we need to come back here to this meditation hall and sit on the cushion and carefully observe what's coming up, and suddenly in this way things happen. E allo stesso modo noi ogni tanto abbiamo bisogno di tornare a fare un ritiro in un centro di meditazione come questo, sederci sul cuscino e osservare tutto ciò che sorge e vedere cosa succede. When the necessary conditions are present, those sudden chicks will hatch. For the retreatants, when the necessary conditions are there, Nibbana will be realized. E quindi quando ci sono le condizioni giuste, allora ecco che le uova, i pulcini dentro, si apriranno e allo stesso modo quando le condizioni sono giuste, il Nibbana sarà rivelato nella propria pratica. Now, this path of purification with Suddhimagga in Nepali can be described as a gentle path that brings about that nonetheless brings about profound changes. Quindi questo sentiero di purificazione Visuddhimagga nella lingua Pali è un sentiero delicato, però allo stesso tempo porta delle profonde trasformazioni, dei profondi cambiamenti. If one is unfamiliar with mindfulness practice, then one might think, well, what goods is there to come out of this practice? Sitting, walking, doing nothing. Se uno non ha familiarità con la pratica di consapevolezza, potrebbe chiedersi, ma quali vantaggi ci sono a praticare in questo modo? Questo seduta, poi camminata, seduta, camminata, non succede mai niente, è il fare nulla. But that initial impression tends to deceive. Quindi questa impressione iniziale però tende a ingannare, può essere ingannevole. And suddenly, so one keeps being mindful during sitting meditation, formal walking meditation, and general activities. And then, over time, many changes occur. Ma se uno continua a sviluppare la consapevolezza nella seduta, nella camminata, nelle attività quotidiane o generali, sicuramente vedrà che cambiamenti avvengono. Now, the path of Fatna purification that was compiled by Elder Buddhaghosa, a famous commentator about 500 Satna past Christ, that Satna book describes various stages of purification, and among those, the first one is called purification of virtue or morality, Sila Visuddhi in the Pali scriptural language. Quindi il Visuddhimagga, che è un testo scritto da Buddhaghosa, che era un commentatore, si dice, sì, di testi che è vissuto 500 anni dopo Cristo e che ha scritto appunto questo sentiero di purificazione. In questo testo vengono elencate varie fasi nella propria pratica di purificazione. La prima è proprio la purificazione della virtù, E quindi sila visuddhi. Sila visuddhi, that's it. And satya, so already by now taking the precepts and living in accordance with the precepts, now some purification of our bodily as well as verbal conduct takes place. E quindi già seguendo i precetti, questo fa sì che avvenga una purificazione almeno a livello delle nostre azioni, della nostra parola. It will further contribute to a restraint of our senses, which then adds to our purity. E successivamente questo ci porterà a una limitazione, un controllo, diciamo, dei nostri sensi, e questo porterà ad un'ulteriore purificazione. And yet another aspect here is the purification of our livelihood. So if prior to practice we engaged in some improper livelihood like selling alcohol or dealing in arms and so on, then eventually we might come to understand that this brings much harm to others and oneself. And then one stops pursuing this business. Poi c'è la purificazione dei mezzi di sussistenza, e questo fa sì che ci possa essere un cambiamento nelle proprie scelte di vita, e quindi se uno per esempio commercia in armi o in alcolici, si rende conto che questo può fare del male ad altre persone e quindi cambierà anche i propri mezzi di sussistenza. And so for the monastics, another aspect is that they may make proper use of their requisites, such as robes and food and so on. E poi per quanto riguarda i monaci, questo richiede anche che facciano un buon uso dei loro cosiddetti requisiti, cioè che abbiano gli abiti e tutte le regole riguardo al mangiare e via di seguito. And so just think of it, the difference that exists between a person who does not follow an ethical code of conduct and one who does, there'll be big differences. Pensate solo alla differenza che c'è tra una persona che segue una certa condotta etica e una persona che non la segue, e vedete che ci sono parecchie differenze. Now the second purification is called the purification of mind, and citta visuddhi in the Pali scripture language, and this then has to do with certain concentration. La seconda purificazione è la purificazione della mente, quindi è citta visuddhi nella lingua Pali, e questo ha a che fare con lo sviluppo della concentrazione. And then, as explained yesterday, this certain concentration can either take on the form of access concentration and then attainment concentration as part of the samatha meditation, or it could take on the form of momentary concentration, kanika samadhi, as part of vipassana practice. E come abbiamo detto ieri, questa concentrazione può prendere la forma della concentrazione d'accesso e poi la concentrazione degli assorbimenti, questo nella pratica di samatha, oppure può prendere la forma della concentrazione momentanea o kanika samadhi, e rientra nella pratica della vipassana. And it is certainly then when some degree of concentration arises that with this help of the concentration then the hindrances are being suppressed. Ed è proprio a questo punto, con l'aiuto di questa concentrazione che è stata sviluppata, che alcuni di questi difetti mentali sono momentaneamente tenuti a bada, sono repressi. So with the suppression of the five hindrances, what results from this is an increase in purification of the mind. E quindi con la soppressione, diciamo, dei cinque ostacoli, questo fa sì che la mente sia purificata, e questo porta a una purificazione della mente, e quindi si parla della, appunto in questo secondo stadio della purificazione della mente. No. The third Satya purification is known as Deity Visuddhi purification of you. La terza purificazione è Deity Visuddhi, e cioè la purificazione della visione, cioè del modo di vedere. And it is certain defined as the purification of view in terms of certain discerning, so distinguishing mind from matter. E si parla di, appunto, di purificazione della visione, del modo di vedere, in termini di, della capacità di distinguere tra la mente e la materia. And so this then helps to at least temporarily purify the mind of our wrong view of a permanent self. E questo ci aiuta almeno temporaneamente a liberarci di questa idea errata o visione errata di un sé. And what we see is that there are only physical and mental formations occurring. E quindi a questo punto noi vediamo che ci sono solo formazioni o fisiche o mentali che accadono. And our retreatants here have pretty much understood this point. E quasi tutti i meditanti qui presenti hanno già più o meno compreso questo aspetto. No, there's many aspects that are involved or that are part of this purification of view. Ci sono diversi aspetti che fanno parte di questa fase della purificazione della visione. When a retreatant starts satna practicing, then and satna starts observing the rising and falling movement and other objects, gradually he or she will come to discern between physical and mental formations. Quindi quando un meditante comincia a osservare un oggetto, come per esempio l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome o un altro oggetto predominante, molto presto comincerà ad accorgersi di questa distinzione tra fenomeni fisici e fenomeni mentali. And so with rise and fall one recognizes that in the end they are different in nature. E per esempio osservando solo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome si renderà conto di come questi fenomeni appunto fisici e mentali siano diversi per loro natura. No, while observing the rising falling movement of the abdomen, sooner or later some other predominant object is likely to arise, and this could be maybe a pain, so then one goes and observes satna the pain, and satna then after one, when resuming the observation of the rise and fall, one might satna notice the wandering of the mind. Allora, mentre si sta osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, può capitare che sorga un altro oggetto e che diventi predominante, come per esempio un dolore. Allora l'attenzione si sposta al dolore, poi successivamente può essere che la mente comincia a divagare. And suddenly, then, having observed that for a while, one goes back to the observation of rise and fall, and suddenly, then sooner or later, maybe the hindrances arise, like or the hindrance of sense desires, hindrance of ill will, and so on. E dopo aver osservato un po' la mente che divaga, si ritorna all'oggetto primario dell'addome, e dopo un po' potrebbero sorgere i cinque ostacoli, per esempio, quelli del desiderio sensoriale o della malevolenza e via di seguito. And so, having then experienced the rise and fall, having experienced a pain, some hardness, heat, cold, and then on the other hand, having experienced wandering mind, maybe also sloth and torpor, the hindrances, with this, one recognizes, there are these two different categories of objects. Some objects are clearly physical in nature, other objects are clearly mental in nature. E quindi, avendo osservato tutti questi fenomeni, fenomeni come l'alzarsi e abbassarsi dell'addome, un dolore, il caldo, il freddo, la pressione, la mente che divaga, che ne so, la pigrizia, il torpore, quindi i 5 ostacoli, eccetera. Avendo osservato tutto questo, il meditante chiaramente riesce a distinguere tra quei fenomeni che sono per loro natura fisici e i fenomeni che per loro natura sono mentali. And suddenly this discernment of mind and matter, physical and mental formations, usually happens or usually occurs when a retreatant has gone beyond the hindrances and Satya has also gone beyond physical pains and aches. And what then happens is that mental states such as gladness, as joy, calmness, clarity of mind, maybe even contentment arise. E di solito questa distinzione tra mente e corpo, o tra mente e materia, diciamo, oppure aspetto fisico e mentale, quando si riesce a fare questa distinzione è perché si sono superati i 5 ostacoli, e a quel punto possono sorgere anche delle esperienze di felicità o di gioia o di soddisfazione, spariscono anche i dolori fisici. No. A further aspect that certain one might... Scusate, c'è anche calma nella mente. A further aspect that one might notice is how mind and matter are operating, being dependent on one another. E uno può anche vedere come operano la mente e la materia, come uno dipenda dall'altro. So if there were to be just the mind, then what we call a being could not function. If there were to be just the body, just physical formations, again, what we call a being could not function. Quindi se ci fosse solo la mente, quello che noi chiamiamo un essere, un essere vivente, non potrebbe esistere. Così come se ci fosse solo l'aspetto fisico, solo la materia, ciò che noi chiamiamo un essere vivente non avrebbe modo di esistere. And so the mind and matter do need to work together. Quindi la mente e materia, o mente e corpo, devono lavorare insieme. And so this interdependence of mind and matter in the course of one's first few days of intensive practice does become somewhat clearer. Questa interdipendenza tra mente e materia, anche dopo alcuni giorni di pratica intensiva, diventa abbastanza chiaro. Now, there's other things that certain retreatants are likely to discover, namely the arising of certain intentions, and certain seeing that before an action takes place, there tends to be an intention that arises. And when one is mindful of intentions, then there is at least this opportunity to step back for a second or two to reflect on whether what one is going to do or say, whether this is wholesome or not. If one finds it's wholesome, one goes ahead and acts on the intention. If one finds the intention is unwholesome, then one has the freedom to not act on it. Un'altra cosa che si potrebbe scoprire a questa fase della pratica è quella dell'intenzione, cioè uno si accorge che c'è sempre un'intenzione che precede un'azione, e questa consapevolezza delle intenzioni permette di fare un passo indietro e quando sorge l'intenzione capire se è un'intenzione salutare e quindi fare seguire un'azione salutare, oppure se l'intenzione non è salutare e a quel punto non si agisce. sulla base di questa intenzione. Now, a further important sadhana discovery, a very basic sadhana discovery, is sadhana, this distinction between wholesome and unwholesome mental states. To some, they're not even familiar with the term wholesome. They might ask, what is this? What do you mean by wholesome? Because it's not part of our normal language. Un'altra scoperta che si può fare è questa, come dire, capacità di distinguere tra ciò che è salutare e non salutare. E alcune persone non hanno neanche familiarità con questo termine, non si pongono neanche mai il problema di cosa sia salutare o non salutare, perché non fa parte molto del nostro linguaggio, diciamo, della nostra esperienza comune. Now, with satna further, practice of retreatant, is satna then bound satna to make some new or further discoveries, such as discerning that satna, those physical and mental formations that have been observed already for some time, that those occur owing to conditions. So formations do not occur because of some fictitious supreme being. Formations also do not occur in a haphazard manner, but rather owing to conditions, certain results will take place. Un'altra, cioè con l'andare avanti della pratica potrebbero esserci delle altre scoperte, una delle quali è il fatto di vedere che queste formazioni, sia fisiche che mentali, che si sono conosciute nell'arco della pratica, sono in qualche modo, cioè nascono, sorgono in virtù di determinate condizioni. Quindi il loro sorgere non dipende né da un'entità suprema fittizia e neanche sorgono così in maniera assolutamente casuale, piuttosto sono conseguenza di cause precedenti. So, when a retreatant pays close attention to what's really happening, then he or she might not notice when hearing a sound. Well, there's this external sound, then there are the ears with which we hear. The sound impinges on the ear, and suddenly what arises is suddenly hearing consciousness. And suddenly that's the coming together of the sound, the ears, and certainly hearing consciousness, this is known as hearing contact and mental state. Il meditante poi, continuando a prestare attenzione ai fenomeni così come si presentano, potrebbe per esempio notare come c'è un suono, questo suono stimola l'orecchio e questa stimolazione dell'orecchio provoca, fa sì che sorga la coscienza uditiva. E quindi questi tre fenomeni, questi tre oggetti, il suono, l'orecchio e la coscienza uditiva, insieme formano il contatto, l'esperienza del contatto uditivo. And suddenly then based on this feeling arises and suddenly so on. And so when one observes certainly carefully, one then sees that it's not I am hearing, but the hearing process is taking place. E quindi, di conseguenza, dopo questo contatto c'è poi la sensazione. E uno si accorge che è solo un processo, non sono io che sento, ma piuttosto è un processo che avviene da sé. And it's also not some supreme being that causes this hearing process to take place, but rather, owing to certain conditions, the hearing takes place. E inoltre non è a causa o grazie a un intervento di un ente supremo che questo processo dell'udire accade, ma piuttosto che ci sono determinate condizioni che determinano il processo uditivo. Now, there are many such connections that take place. So we might see a delicious dish at lunchtime in the kitchen, and then immediately the thought arises, I'll take more of that. E quindi potremmo notare molti collegamenti. Per esempio, in cucina vediamo un delizioso piatto e può sorgere nella mente il pensiero: ah, ne voglio ancora, ne voglio prendere tanto. Or, when you're seeing a dish that doesn't seem too delicious, then the mind might react by going, well, I won't take any of this. O viceversa, di fronte a un cibo che non sembra così allettante, così buono, la mente potrebbe dire, beh no, io questo non lo prendo. No. On occasion it may happen, one sits in meditation quite peacefully, and then one remembers some unfortunate, rather unpleasant event from the past, and anger arises. Può succedere che uno è seduto tranquillo in meditazione e può sorgere un ricordo spiacevole del passato, legato a un avvenimento del passato. Ecco che sorge la rabbia. No, the anger doesn't arise out of the blue, but rather because because of this earlier memory of some unpleasant event from the past. Allora, la rabbia non sorge così all'improvviso e senza nessun motivo, ma piuttosto è stata causata da questo ricordo di un avvenimento spiacevole del passato. And there are many cause and effect links to be discovered. They fall into four basic categories. The first category is a mental cause is there and it triggers a bodily result. Ci sono molti collegamenti di causa-effetto che possono essere esplorati, ma soprattutto rientrano in quattro categorie, no? Quattro tipi. Il primo è quello di uno stato mentale che fa da causa scatenante ad un fenomeno fisico nel corpo. Or it could be that a physical phenomenon is the cause, and that then leads to the arising of some mental phenomenon, which then is the result or effect. Oppure viceversa, può essere un fenomeno fisico la causa scatenante di uno stato mentale che a quel punto diventa l'effetto o la risultante. So, as an example for this, a pain arises somewhere in the body, you observe it, it gets stronger and stronger, and sooner or later some irritation arises towards it. Per esempio, può sorgere un dolore nel corpo che diventa sempre più forte e di conseguenza sorge l'irritazione nella mente. So the pain is your physical object, is the cause, and the arising of aversion is your result, which is mental. E quindi la causa è il dolore e il risultato è questa avversione nella mente che la causa è il dolore, il risultato è l'avversione nella mente. And then it could be that a physical phenomenon is the cause and a different physical phenomenon is the result. Il terzo caso è quello di un fenomeno fisico che è causa di un altro fenomeno fisico. So it's a bit colder today, and as a result of this we might decide to dress a bit warmer. Per esempio, oggi fa un po' più freddo e quindi come conseguenza potremmo decidere di coprirci un po' di più. And then finally, as the last category, we have a mental phenomenon being the cause and a different mental phenomenon being the result. E come ultimo caso abbiamo uno stato mentale che è la causa e un altro stato mentale è il risultato. So, as an example for this, you have a number of different objects competing for your attention. However, consciousness can pay attention or can take only one object at a time, and hence it is the mental factor of advertence that satya is essential, and satya then determines which object the mind then pays attention to. Per esempio, ci sono più oggetti che combattono, sono in concorrenza tra di loro perché richiedono l'attenzione della mente. Poiché la mente non può prestare attenzione a più di un oggetto, deve scegliere, allora è il fattore mentale del, qui advertence, non so come tradurlo in italiano, cioè la mente che si dirige verso un oggetto, non so se c'è un termine in italiano, però questo è un fattore mentale, non la mente che va verso il suo oggetto, e questo fattore sarà quello che sceglierà a quale oggetto prestare attenzione. And so the advertence is certainly the cause, and certainly then, let's say, the seeing process being, or the mind certainly then paying attention to the seeing process, or the seeing process taking place would be the result. Quindi in questo caso è questo fattore mentale, che in inglese è advertence, cioè il direzionare la mente, sarà la causa, e la conseguenza sarà l'attenzione che viene prestato a quel particolare oggetto. So it is in this way then, through patient exploration of whatever comes up, that gradually different forms of intuitive understanding arise. E quindi è in questo modo, con questo tipo di esplorazione, che un po' per volta possono sorgere questi vari momenti di conoscenza o saggezza intuitiva. More on this topic tomorrow. E domani andremo avanti su questo argomento. And allow me to conclude for today by wishing may more and more intuitive insight arise, and may this intuitive insight or knowledge eventually turn into liberating wisdom. Allora terminiamo il discorso con l'augurio che possano sorgere sempre più momenti di queste conoscenze o saggezze intuitive, e che alla fine questo possa portare alla saggezza liberatoria, che libera. Ok, and that's it for today. Sadhu, sadhu, sadhu. Non so, breve. È dato dai difetti mentali l'affiorare di un ricordo che poi sviluppa un certo stato mentale. So you were talking about a memory that then triggers a mental state. Yeah. Can this be due to mental defilements? The fact that this memory rises. The arising of the memory itself. Mm-hmm. The arising of the memory is probably because mindfulness is not there at the point. Quindi il fatto che sorga questo ricordo può essere dovuto al fatto che non c'è consapevolezza in questo in quel momento. And it could be that suddenly, let's say, you see some object, an external object, and this reminds you of something that you've seen 10 years ago. Può anche succedere che tu veda qualcosa e questa cosa ti ricordi di un'esperienza fatta nel passato, e quindi è questo che scatena il ricordo. Sì, ma nel corso della meditazione, quindi è come se la mente fosse un serbatoio da cui, se non vengono tenuti a bada dalla consapevolezza, possono emergere So the mind is like a storeroom full of mental defilements, and if there's not mindfulness that keeps them in check, then they might come up any time. Sure. It's like pot of water in a certain sense, and you give it some heat and then it keeps boiling. Sì, è un po' come una pentola piena d'acqua, gli dai il calore e questa continua a bollire. Eventualmente, se non ce la facciamo con questa vita, ci può dare l'indirizzo del negozio dove vendono le lampade per illuminare la stanza. Yes, if you can give us the, if we can't make it in this life, if you can give us the address of where to buy those flashlights that will illuminate the night. Develop yourself. No, la devi sviluppare te stesso. This is not for sale. Non è in vendita. But you can't order it on Amazon. Non puoi neanche ordinarla su Amazon. Let's keep it. Just let this one question answer because this is. Sì, sì. Quindi finiamo qui perché è già abbastanza tardi, deve fare i colloqui. Domani magari lasciamo un pochino più di tempo per le domande e risposte.